Tadalibaba mi cubale, dite. Tadalibaba mi cubale, dite. Tadalibaba mi cubale, dite. Oh no mi cubale, dite. Oh no mi cubale, dite. Oh no mi cubale, taquicutindón de aleli, dice. Tadalibaba mi cubale, dite. Tadalibaba mi cubale, dite. Tadalibaba mi cubale, dite. Oh no mi cubale, dite. Oh no mi cubale, dite. Oh no mi cubale, taquicutindón de aleli, dice. Tatalibaba mi cubali, dice. Tatalibaba mi cubali, ay, tatalibaba, tatalibaba, tatalibaba, dice. Tatalibaba mi cubali.